facciamo così. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, e per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, bensì come una ricompensa al merito. E la povertà non costituisce un impedimento. Qui ad Atene noi facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace, e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. Qui ad Atene noi facciamo così. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. Qui ad Atene noi facciamo così. Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione. Ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo. E noi non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene noi facciamo così. Benvenuti dalle frequenze infuocate di Radio Ciloma per il caldo asfissiante che c'è, 105.7 ciloma.org per lo streaming. Noi siamo come sempre gli Scarafaggi, lunedì dalle 18 alle 19. Abbiamo cominciato con il discorso di Pericle al chi? Popolo ateniese. Pericle è un parente lontano di Renzi. No, guarda Renzi, di Pallapalla, di Oliverio. Vecchio antenato di Oliverio, insomma, che rivolgeva il suo discorso sulla democrazia al popolo ateniese nel primo anniversario della lotta della guerra con del Peloponneso. Quindi Pericle cambia verso. Pericle ha cambiato verso tanti secoli fa, poi il mondo è cambiato un pochino, diciamo, in varie forme. Quindi non potevamo non cominciare con un richiamo, insomma, a quello che è successo ieri in Grecia, quello che sta succedendo ancora oggi in Grecia. Oggi affronteremo infatti questa puntata in cui parleremo di Siriza, di quello, delle prospettive, di quello che è successo, dei ricatti dell'Europa, insomma, affronteremo un pochino questo discorso internazionale, ci allontiamo un pochino dai rifiuti, ne parliamo. Parliamo anche un po' di sinistra, visto che parliamo sempre del PD, finalmente parliamo un po' di sinistra. Finalmente sì, c'è un po' di discussione da fare, quindi... poi avremo un ospite, ci sarà Marino De Luca, il nostro caro amico, che poi dopo sarà in linea e lo presenteremo. È stato in Grecia qualche anno fa girare un documentario sui movimenti greci, quelli che poi hanno portato, insomma, alla nascita di Siriza fondamentalmente, quindi viva voce, quindi diciamo diretta da chi è stato sul posto, quindi lo ascolteremo volentieri. Quindi una puntata un po' particolare, poi comunque sui avremo rifiuti, comunque delle chicche sui rifiuti, sui rifiuti qualcosa. Ah, Munizia ci addessa sempre. No, sì, se non va bene. Va bene, quindi andiamo con la rubrica, poi stop musicale, poi cominciamo la trasmissione sulla Grecia e su Siriza. Allora, oggi è il 6 luglio. Dopo il 5 luglio. Il 5 luglio, e allora ricomincio. Referendum greco 5 luglio, il no ha vinto 61%. Oggi 6 luglio. Andiamo al 6 luglio. Allora, 1785. Il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti. È la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. Quindi nel 1875, il 6 luglio, il dollaro è diventata la moneta degli Stati Uniti, la moneta che adesso tiranneggia tutto il mondo in maniera impunita. 1854, sempre 6 luglio, a Jackson, Michigan, si tiene la prima convention del Partito Repubblicano statunitense. Quindi oggi siamo con l'ala moderata statunitense, insomma. Sono le ricorrenze del potere statunitense. 1885, Louis Pasteur testa con successo, è sparito tutto, con successo il suo vaccino contro la rabbia. Il paziente è Joseph Meister, un ragazzo morso da un cane rabbioso. A noi non farebbe niente, perché rabbiosi come siamo, nessun tipo di medicina ci aiuterebbe. I vaccini nuovi contro la rabbia sono la televisione e internet. Ah, fondamentalmente. Sono le armi di persuasione di massa. Fondamentalmente sì. 1912, 6 luglio, viene riconosciuto il primo record dei 100 metri maschili, quindi corsi da Don Lippincott in 10 secondi e 6, quindi questo è il primo record registrato dei 100 metri maschili, quindi notizia... Lento, io stanotte ho visto correre i PD a velocità molto più elevate. Sì, vabbè, adesso vanno molto più veloce, Poi, 1919, il dirigibile britannico R-34 atterra a New York completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in, appunto, in dirigibile. I famosi Zeppelin, no? Pure la Germania nazista li ha avuti. 1942, Mussolini invia l'Armir, l'armata italiana, in Russia. Quindi è l'inizio della campagna russa, disastrosa campagna russa, nella Seconda Guerra Mondiale, che costò migliaia di vite di italiani che andarono, insomma, senza nemmeno gli scarponi. Quindi io ho conosciuto, giusto così, tra parentesi per dirlo, ho conosciuto un militare all'epoca che è praticamente scappato faceva parte della spedizione, del corpo di spedizione dell'armata di Russia, è scappato perché insomma le condizioni erano veramente disumane, e poi è stato arrestato, imprigionato in un campo di concentramento per disertori, è scappato anche da lì e poi è ritornato a piedi nella sua amata Calabria dopo 3 anni di cammino. Quindi questi sono i fatti della Seconda Guerra Mondiale. 1945, proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il 6 giugno avviene l'eccidio di Schio. I partigiani uccidono 54 fascisti rinchiusi nel carcere, quindi nelle rappresaglie incrociate di quel periodo c'è anche questo episodio. 1976, 6 luglio, l'Unione Sovietica lancia nello spazio la navicella Soyuz 21 con 2 astronauti a bordo nella corsa, insomma, allo spazio tra America e Unione Sovietica, che dissanguò risorse pubbliche solo per dimostrare potenza poi in realtà. 1988, 6 luglio, la piattaforma di trivellazione Piper Alpha nel Mare del Nord viene distrutta da un'esplosione e dal successivo incendio, uccidendo 167 lavoratori. Ma le stesse trivelle che vogliono impiantare a Sibari? Probabilmente sì. Sono quelle. Probabilmente sì, vabbè, dal 1988 penso che la tecnologia un po' qualche passo avanti l'ha fatto, ma insomma, l'ultimo disastro avvenuto non mi risulta. Appunto, tanto, però, visto quello che insomma è successo, soprattutto insomma nel Golfo del Messico, è stata una cosa spaventosa. E poi chiudiamo con una notizia astronomica: il 2004, il 6 luljo, la sonda Cassini-Huygens entra nell'orbita di Titano. Quindi in questo viaggio cosmico di questa sonda, noi piccole sonde di questo pianeta, diamo la linea alla musica e poi ci sentiamo dopo. Bentornati in studio, 105.7, genoma.org per lo streaming. Noi siamo gli Scarafaggi, stiamo stramorendo di caldo. C'è Andrea che è agitatissimo. Andrea è sì, in fibrillazione completa, vabbè, sarà entusiasta insomma un pochino per la vittoria del referendum del no di ieri, penso, no Andrea? Andrea è l'unico che ha le cuffie, se parlo non mi sentite. Non ti preoccupare, tu, so. Parla, intervieni, di la tua, non... Voglio dire, un popolo intero ha detto la sua ieri e tu non puoi dire una cosa al microfono. Polemica stizzita di Andrea. Sì, polemica stizzita, ma è il caldo, è il caldo. Va bene, Italo, cominciamo insomma, da che cosa partire? Da cosa una considerazione partire? Politica su quello che è successo ieri. Abbiamo del materiale democratico di cui discutere, realmente democratico di cui discutere, a che si offendono gli amici nostri della sinistra italiana istituzionale, che oggi condividevano su Facebook le foto delle piazze stracolme greche che festeggiavano la vittoria di questo referendum storico, perché poi si tratta di un evento storico che rimarrà e sarà ricordato in tutti i libri di storia, perché oggi, ieri la Grecia ha scritto appunto una pagina di storia dicendo no alla Troica. Per la prima volta un popolo intero interpellato ha detto no alla Troica. In verità nel corso degli anni non sarebbe proprio non è la prima volta, sì, assolutamente, sì. Perché ci sono stati altri referendum sia contro l'ingresso in Europa che contro l'ingresso nella moneta unica. In Irlanda addirittura il referendum fu fatto ripetere 3 volte fino a quando poi non risposero sì, finimenti, ve lo rifacciamo ripetere fino a quando non, fino dite, a quando sì. Non dite sì. Non dite sì. Insomma, la Grecia è stritolata dal cappio dei creditori e degli usurai internazionali, dalla Banca Centrale Europea, dalle istituzioni europee che come primo obiettivo non hanno la tutela del popolo, ma semplicemente la tutela di un'unione che fa acqua da tutte le parti, sia a livello economico, sia a livello politico e soprattutto a livello monetario, ne abbiamo parlato tante volte. Sì, sì, sì, sì. Sicuramente non è questo il referendum, non è un referendum contro l'euro, però è un referendum contro il diktat dell'Europa e di conseguenza le conseguenze poi le vedremo in questi giorni. Potrebbe essere anche il viatico per dire no all'euro, alla moneta unica che ha stritolato i paesi del Mediterraneo. Sì, perché poi insomma in questo pronunciamento del popolo greco è implicito comunque una condanna anche della moneta unica in quanto tale, no? Anche tra l'altro tra le forze che compongono Syriza ci sono proprio delle forze di sinistra anti-euro, proprio sì. Smaccatamente anti-euro. Assolutamente. Quindi, sì. C'è anche un'indicazione in questo senso. Assolutamente, però poi il dato di fatto è che finalmente una forza politica si schiera dalla parte del popolo. C'è addirittura un noto ex giornalista che conduceva il TG1, oggi passato nelle file dell'esercito del PD, che dice che com'è possibile trattare con un governo, indicando il governo Tsipras, che rimanda ai cittadini le decisioni da assumere. Ecco, lui dice, sarebbe come trattare l'acquisto di una casa con un passante. Cioè, questo qui è un esponente del PD italiano, ex conduttore. Vabbè, diciamo il nome, come si chiama? Ma l'ho perso, non mi ricordo il nome. Vabbè oggi l'ho cancellato. Si commenta il TG1 comunque. Si commenta da solo comunque. Vabbè, diciamo che insomma le posizioni di questo governo, della sinistra italiana, del PD in particolare, sull'euro sono state sempre veramente scandalose. Questa insomma deriva nei confronti del liberismo, comunque questo abbandono totale di qualsiasi prospettiva di difesa popolare, che ha portato proprio a sfociare in questo iperliberismo europeista cieco e comunque poi fondamentalmente indirizzato da interessi che sono tutt'altro che italiani. Assolutamente. Perché poi fondamentalmente è questo quello che succede, perché c'è tutta una serie di potentati, non soltanto europei ma anche statunitensi, multinazionali, banche, la finanza in generale, che hanno determinati interessi a che questa Europa rimanga così com'è e vada a fare che cosa? A fare quello che ha fatto in Grecia: macelleria sociale, abolizione dei diritti, precarizzazione del lavoro, attraverso il ricatto del debito. Aumento dell'età pensionabile, diciamo tutto quello che è già successo in Italia, solo che in Italia non si muove una foglia. Diciamo che questi governi hanno voltato le spalle al proprio popolo e hanno deciso di sacrificare il popolo in nome di una moneta, in nome di un'unione che non ha nessuna valenza né storica né culturale né politica, in quanto io ribadisco sempre che l'Europa è dei popoli oppure non è. Esatto. Altrimenti non ha nessun senso, al di là della moneta, di qualsiasi disquisizione, se è giusto, se è meno giusto, perché comunque a livello economico e monetario i premi Nobel si sono espressi nettamente contro sia alla moneta unica sia al modello economico applicato in Europa. Quindi sì, non c'è bisogno che io dico la mia, perché non ho nessuna diciamo conoscenza e nessuna cosa che possa avvicinarsi a quella di un premio Nobel, obiettivamente. Però io, da profano in materia, prendo loro come punto di riferimento, essendo loro i massimi esperti mondiali, no? Se ti dicono che non va bene come sta andando, poi ovviamente dal mio punto di vista io vedo che la scuola è stata distrutta, la scuola pubblica, e l'età pensionabile è stata aumentata, i diritti sono diminuiti, e il mercato del lavoro è allo sfacelo, la disoccupazione è ai massimi storici, il PIL che tanto decantano è fermo, la crescita è a zero, siamo in questa situazione da quasi 10 anni ormai, e questi personaggi ancora vanno in televisione a sparare puttanate e a definirsi anche di sinistra. Anche perché poi c'è questa cosa curiosa, perché poi tra l'altro questo, ritornando alla Grecia, è un discorso che Tsipras e Syriza e tutte le forze che insomma ruotano intorno a Syriza devono porre sul tavolo. La considerazione è questa, secondo me, che è ridicolo ascoltare i discorsi quando si parla di Europa. Si parla acriticamente d'Europa, si parla delle dinamiche del debito, si usano i paroloni, no? I tecnicismi economici per non far capire niente alla gente che ascolta, però poi in realtà nessuno pone la questione politica fondamentale di che cosa è l'Europa, nessuno pone la questione della governance europea, nessuno soprattutto si pone il problema di che cosa sono questi debiti pubblici che strozzano gli stati, perché se noi non discutiamo su che cosa è l'euro, su che funzione ha la BCE, che è un istituto privato che presta i soldi agli stati con tassi di interesse usurai, se non poniamo questa questione politica fondamentale e centrale, è inutile che poi ci dichiariamo europeisti. Perché l'ha detto... ti lascio parlare. C'è una frase che tra i tanti economisti che si sono espressi contro l'euro e questa costruzione europea, noi ne abbiamo uno in Italia che è uno dei migliori da questo punto di vista, che è Alberto Bagnai. Alberto Bagnai ha sempre dichiarato l'euro uno strumento di classe, uno strumento politico. Quindi l'euro non è una moneta, ma è un metodo politico. Di governo, assolutamente. Esatto. Giusto una correzione, nel senso che la Banca Centrale Europea presta i soldi alle banche, sul territorio, e poi le banche con tassi usurai le prestano agli stati. Sì, sì, ma acquistano i titoli per di Stato. Dire, ma penso che anche Marino, che avremo tra poco in linea, lo dirà sicuramente meglio di me, la Grecia ha ricevuto dal 2010 al 2015 252 miliardi di euro. Giusto per sfatare il tabù che noi da questo referendum ne usciamo con le ossa rotte economicamente, cioè noi, l'Italia è economicamente con le ossa rotte per via del trattato di Lisbona, per via del trattato di Schengen, per via del trattato di Maastricht, per via del trattato del meccanismo europeo di stabilità, per via del fiscal compact, esatto. E questo per questo l'Italia, non per il debito greco, perché come si legge apertamente su questo sito di cui adesso è, per un'altra città di cui le fonti sono abbastanza attendibili in quanto riprendono studi a livelli internazionali, di questi 252 miliardi distribuiti dati alla Grecia tra il 2010 e il 2015, il 10% è servito a riprendere, diciamo, economicamente il territorio, il 90% è andato a pagare il debito, quindi è stato creato altro debito per pagare il debito. Questa è l'assurdità del sistema economico monetario. Il cane che si morde la coda, naturalmente. Sfatiamo questi spauracchi che vengono spiattellati su internet, in televisione e telegiornali, perché sono delle puttanate incredibili. I dati sono diversi, sono altrove, lo fanno solo per impaurire la gente, perché ma è evidente. In Grecia si è dimostrato che fuori dall'Europa e dall'euro c'è vita. Ma è evidente, insomma, il fatto che comunque, se noi guardiamo le richieste, insomma, della Troica nei confronti della Grecia, qual era la richiesta qualificante che poi ha qualificato, insomma, la rottura, no? Del trattato, della trattativa tra Grecia e Troica. appunto le riforme strutturali, che è una parola che noi sentiamo ripetere da decenni e che dice tutto e non dice niente. Poi in realtà dietro questo slogan propagandistico che il PD in Italia si è riempito la bocca per anni, poi ci sono i tagli alle pensioni, i tagli ai servizi pubblici, la riforma del mercato del lavoro, la porcata del Job Act, insomma, ne è un esempio paradigmatico. La scuola, i piani in casa, la scuola, tutte le porcate che hanno fatto, esatto, in questi queste anni. Sono le riforme strutturali, quindi Tsipras sicuramente, insomma, ha avuto un colpo di genio a livello tattico, ha avuto un colpo di genio di chiedere questo referendum. Poi certo, c'è bisogno anche della strategia, non solo della tattica. A lungo andare la Grecia dovrebbe essere comunque promotrice di una proposta politica alternativa per l'Europa. Se vogliamo essere europeisti fino in fondo, si devono prendere tutte le forze europeiste, europee appunto, e mettere sul piatto delle proposte concrete di riforma di questa struttura europea, se si vuole essere europeisti. Altrimenti, se non c'è lo spazio politico per fare un'operazione del genere, usciamocene tutti, perché così a questi patti è impossibile. Anche perché Martin Schulz, che è uno dei capò, come l'aveva definito Berlusconi, io ero d'accordo già all'epoca nel definire Schulz capò, ha già fatto la sua minaccia, nel senso che se Tsipras, come giustamente stai dicendo tu, non fa delle proposte costruttive, la situazione si farà drammatica. Quindi ha già fatto vedere che sono pronti a dare la botta alla Grecia. In merito a questo, ovviamente, Syriza nel Parlamento europeo non è sola, perché c'è Podemos. Alcune proposte di Syriza sono appoggiate anche dai 5 Stelle, che speriamo che abbandoneranno i banchi a fianco a Farage per schierarsi con la sinistra europea unitaria. Finalmente, sarebbe auspicabile. E non quell'opportunismo pseudopolitico che sa tanto di populismo, che non serve veramente a nulla. Bisogna stare contro questa Europa, perché è giusto, perché bisogna stare dalla parte dei popoli. Se Europa sarà Europa dei popoli, altrimenti si fracasserà su se stessa, come la Russia, l'Unione Sovietica, e questo è il destino di questa Europa, probabilmente. Sperando però. In alcune cose la ricorda pure, sì, l'Unione Sovietica. Però l'Unione Sovietica poi ci ha messo 20 anni a riprendersi. Se siamo magari un po' più intelligenti, cerchiamo di non fare la stessa fine. Beh, diciamo che là c'è stata, insomma, sì, vabbè, l'applicazione selvaggia, insomma, del liberismo. La shock therapy l'hanno chiamata. Quindi sappiamo che cosa hanno passato, con arretramenti sociali paurosi. Un'altra cosa ci sarebbe da aggiungere, insomma, al discorso che stiamo facendo, che è molto ampio ed è molto andrebbe approfondito meglio sicuramente. C'è un'altra cosa da dire: la prospettiva di un'uscita della Grecia dall'euro, che si potrebbe verificare, cioè non, naturalmente non conviene quasi a nessuno che la Grecia esca, ok? Anche perché potrebbe dimostrare tanto l'uscita della Grecia, quindi sarà difficile che questa eventualità permettano alla Grecia, sì, di uscire dalla, che queste già gli Stati Uniti hanno fatto pressione, esatto, perché la Grecia non esca dall'euro. Esatto, è qui voglio arrivare. Quindi è una eventualità molto remota, ma nel caso dovesse verificarsi, c'è la probabilità o comunque l'opportunità per la Grecia di legarsi con patti bilaterali, con accordi di altro tipo con altre economie, come la Russia, la Cina. Mi ricordavo quei discorsi che facevo noi qualche anno fa. Ti ricordi? I BRICS, creando comunque le condizioni per una ripresa economica attraverso comunque una nuova emissione monetaria sovrana, la statalizzazione delle banche, tutta una serie di cose che Tsipras, nel caso dovesse trovarsi in questa scelta, dovrebbe fare. Questo è un passaggio, a mio avviso, molto pericoloso. E Tsipras è per questo che sta comunque tergiversando su tante cose. Perché, poi dopo sentiamo anche che cosa ne pensa Marino di questo. Perché insomma l'avvicinamento di Russia e Grecia sarebbe un disastro per gli equilibri geopolitici in Europa, sarebbe un disastro. Quello che sta succedendo in Ucraina adesso, con la guerra che c'è in Ucraina, con un governo nazista sostenuto dall'Europa, lo diciamo chiaro, un governo nazista. Che non si pone limiti alle emissioni monetarie per nonostante il debito ucraino. Bravissimo. Quindi lì non ce ne sono limiti per la Grecia e per il popolo greco, sì. Quindi un governo come quello ucraino, nazista, che si sta opponendo alla Russia e di fatto ha bloccato, no, il passaggio del gas russo, di fatto ha posto delle condizioni ferree all'esportazione di gas russo in Europa. In questo contesto geopolitico la Grecia diventerebbe una pedina fondamentale. Questo perché? Lo spiego proprio in due parole. Questo perché? Perché c'è un progetto che si chiama South Stream, che è un passaggio alternativo di un condotto di gas dalla Russia aggirando l'Ucraina. Doveva passare in Bulgaria, il governo bulgaro ha avuto delle pressioni fortissime dagli Stati Uniti, c'erano già le concessioni. Il governo bulgaro ha delle pressioni fortissime da parte degli Stati Uniti e le concessioni vengono tolte, quindi il progetto attualmente è bloccato. Il progetto alternativo è quello di far passare questo condotto scavalcando la Bulgaria e passando tra il confine turco e greco. Quindi la Grecia diventerebbe un tassello fondamentale per la pretesa russa di accedere comunque, nonostante l'Ucraina, al Mediterraneo. Questo non è mai successo fondamentalmente perché la Russia era arrivata fino all'Albania di Oggia. Esatto. Il paese, diciamo, era un paese fondamentalmente da terzo mondo. Sì. Quindi però non c'erano nemmeno le condizioni. Era una facciata sull'Adriatico, il Mediterraneo è ben altra cosa. Il Mediterraneo sono io, Grecia, Italia e Spagna e paesi del Nord Africa. Esatto. E quindi si verificherebbe questa situazione molto delicata. Quindi in una situazione in cui la Grecia decide o comunque è costretta ad uscire dall'euro e dall'Europa, si troverebbe in braccio alla Russia fondamentalmente, e la Russia la prima cosa che gli chiederebbe sarebbe proprio questa, quella di far passare questo dannato tubo sui suoi territori. Questo metterebbe anche in crisi la presenza ancora della Grecia nella NATO, metterebbe in crisi tutti gli equilibri geopolitici in Europa. Quindi la partita è veramente delicata e Tsipras, che non è un coglione, lo sa benissimo. Siriza, comunque tutta la dirigenza di Siriza lo sa benissimo, quindi è molto delicata. Ecco perché si cerca comunque di raggiungere un compromesso che non strozzi il popolo greco. E il no di ieri è stato proprio per dire questo: non vogliamo essere strozzati, vogliamo essere trattati da pari a pari, vogliamo rinegoziare il nostro debito, però non si mette in discussione l'appartenenza della Grecia all'Europa. Quindi, anche perché diciamo che rinegoziare il debito è una cosa che nella storia è già successa. Sì, ricordiamo che la Germania post seconda guerra mondiale, negli anni 50, che fa il parallelo anche con la Germania post prima guerra mondiale, dove esatto, non fu rinegoziato il debito, la Germania passò un periodo di forte crisi. Nella Repubblica di Weimar ci fu la famosa iperinflazione dovuta alla grandissima disoccupazione, non alle speculazioni sulla moneta come dicono molti, e da lì nacque il nazismo e quello che fu l'orrore della seconda guerra mondiale. Esatto. Quindi i default ci sono sempre stati nella storia. Mi pare che ricordo che nacque a Firenze il default economico. Sì, qualcosa del genere. Comunque sono più o meno, nella storia sono registrati, sono oltre 360. Perché se vorrei dire una stronzata. La moneta ormai non è legata a nessun bene materiale, è una convenzione che noi accettiamo. È bene che si dica che viene prima la vita degli esseri umani, che la stabilità di una moneta che serve solo come mezzo di scambio, perché è un'unità di misura e nulla di più. O il ripagamento di debiti comunque di fatto illegittimi. Quindi il popolo greco ieri ha detto no a tutto questo. Chissà se lo fa fare anche a noi, Renzi. Sì, a noi non ci fa neanche votare. Non ne fa, ma è in pace. Non ci fa neanche votare se fa il referendum. Non eleggiamo il nostro presidente del consiglio da tre legislature. PD, lasciamo stare, Partito dai. Democratico. Lasciamo. Ma cacciate Democratico e tenete partito e basta. Sì, sì, il partito. Il partito della nazione, il partito, in realtà. Il partito unico dell'euro. Va bene, dai, mandiamo un pezzo musicale, poi dopo chiamiamo Marino, così sentiamo direttamente da un attore della situazione. Sì,

mi occupo, no, da un punto di vista della ricerca scientifica, dei processi di democratizzazione interna dei partiti, quelli che volgarmente chiamiamo primarie, ok? E sono stato, ma sostanzialmente mi occupo anche di Sì, sinistra, certo. a livello europeo. E diciamo che la Grecia entra all'interno di questo percorso di studio della sinistra a livello europeo. E il primo passaggio è stato la Spagna, con fenomeni simili, con Izquierda Unita che in qualche modo si opponeva alla crisi del Partito Socialista, alla fine dell'era Zapatero. Da lì è il periodo un po' più lungo, quello che mi ha visto, insomma, in Francia a studiare sia il Partito Socialista, ma in parte anche il Front de Gauche, che era questa federazione dei partiti della sinistra. Per la prima volta, immaginate, il Partito Comunista francese rinunciava a presentare un proprio candidato in nome di questa nuova confederazione, questa federazione guidata da Mélenchon. E lì ho abitato sostanzialmente in quella che viene definita la casa greca, nella Cité Universitaire, praticamente la zona dove sono gli alloggi per ogni paese nella parte sud di Parigi, e io abitavo non in quella italiana, ma in quella greca. Da lì sostanzialmente siamo andati in Grecia. In Grecia per due motivi: da una parte per studiare quello che stava succedendo, il fenomeno politico del momento, che era Syriza, no? Questo partito, questa coalizione di partiti, che poi è diventato un partito che nasceva da 14 sigle, 14 sigle diverse, gli ecocomunisti, i socialisti, i socialdemocratici di nicchia, gruppi femministi, radicali, insomma, si fondevano, Sì, si mettevano insieme troschisti pure, i c'è un pochino trotskisti, di tutto, sì. sì, questa melassa tipica della sinistra ad ogni livello, sia nazionale, europeo, si mette insieme e viene fuori quello che il fenomeno Syriza. Una prima considerazione è sul passaggio, poi entro nel dettaglio del caso greco. Diciamo che sostanzialmente, cosa è successo all'interno di questi paesi, cosa è successo in Grecia, in Francia, in Spagna? Sostanzialmente, in qualche modo, si è ribaltata la dialettica proletariato-borghesia, no? Ed è stata sostituita da una dicotomizzazione che ha visto da una parte il popolo e dall'altro l'oligarchia, quindi una trasversalità che in qualche modo ha caratterizzato anche il Movimento 5 Stelle in Italia, ha riempito quel vuoto politico di una certa sinistra anche in Italia. Per quanto riguarda invece la spedizione in Grecia, in realtà vi rivelo il motivo occulto della mia visita in Grecia, Addirittura c'è pure un motivo occulto. sì, praticamente con questo regista Berardo Carboni, che era, non so se avete visto il film Shot in the Silvio, in cui Sì, l'ho venne visto. Una fortemente follia quel criticato, film. esatto, sì, venne fortemente criticato perché in qualche modo istigava al suicidio di Berlusconi all'epoca. Ci fu anche un'interpellanza parlamentare, insomma, qualcosa che andò oltre. Insomma, questo gruppo, questo regista e con questo gruppo di compagni di rifondazione siamo andati in Grecia con un obiettivo specifico, cioè dovevamo girare, oltre un documentario sulla crisi greca, che poi è stato portato in giro dal Teatro Valle Occupato, insomma l'esperienza romana del Teatro Valle Occupato. Avevamo l'obiettivo di girare dei mini spot da 2-3 minuti, perché in quel momento, nel 2012, si decideva, quindi Syriza, immaginate l'effetto popolare all'interno della dinamica elettorale greca. Questo grande partito che viene dato a testa a testa con Nuova Democrazia, quindi con i conservatori greci, rischia di vincere. Quindi che si fa? La vittoria di Tsipras, che all'epoca era ancora molto più forte, molto più determinato questo impatto rispetto all'euro, rischiava in qualche modo di buttare fuori la Grecia. Quindi il nostro obiettivo era girare dei micro spot destinati a creare una sorta di turismo socialista, no? A favore della Grecia. Quindi intervistavamo questi esponenti di Syriza, questi giovani ragazzi, chiedendo loro di mandare un messaggio di solidarietà internazionale ai popoli, quello dicevate prima, l'Europa dei popoli, a favore appunto di un sostegno politico, ma anche individuale, personale, a favore di questo movimento. E quindi sostanzialmente poi Syriza uscì in quella competizione come secondo partito, insomma. Sì, sconfitta di pochissimo, se non Sì, ricordo male. di poco, e quindi gli spot non andavano in giro. Potevamo riadattarli ora, però insomma eravamo un po' insomma, distanti. Però tutto sommato, quello che voglio dire è l'approccio, cioè la forza di questo partito. Noi abbiamo visto, per esempio, nello stesso anno in cui siamo andati là, c'era il fenomeno Alba Dorata, no? Sì. Quindi, in qualche modo, sia da sinistra che da destra si cercava di rispondere a queste misure, no? Imposte dalla Troica, che in qualche modo distruggevano il partito, il paese. In qualche modo, Syriza, il partito di Tsipras, ha creato questo meccanismo di innovazione sociale più vecchio della storia, basato sul mutualismo, quindi pratiche a sostegno di auto-organizzazione dal basso ai cittadini, ambulatori e scuole popolari, mense per esempio per il mutuo Del soccorso. resto, Marino, scusa se ti interrompo, del resto da qui nacque proprio con questo spirito mutualistico, appunto, e comunque di collaborazione trasversale, nacque proprio il programma di Salonicco, no? Che poi fu il manifesto elettorale di Syriza. Esatto, sì, la forza di Syriza era da questo, cioè mentre da una parte, che ne so, Alba Dorata distribuiva pasta agli ateniesi, bellissimo il discorso che avete mandato nell'intro, distribuiva pasta solo ai greci, quelli di Syriza andavano a riallacciare i contatori dell'energia elettrica, dell'Enel greca, alle famiglie che avevano bisogno, lì dove erano stati staccati, quindi un altro approccio rispetto dal basso che creava e mischiava insieme il partito, i dirigenti di partito con il movimento. C'è da dire una cosa che è interessante anche dai dati, ora stavo studiando un po' i dati i risultati del referendum, anche lì alcuni punti fondamentali. La posizione del QQE, del Partito Comunista Greco, di matrice stalinista, contraria quindi ad ogni forma d'accordo, e quindi ha invitato alla Sì, vigilia del voto settaria comunque, una ad posizione molto annullare la settaria. scheda, insomma, ad avere questo atteggiamento refrattario rispetto alle proposte di Syriza e in qualche modo a qualunque apertura, qualunque accordo rispetto all'Unione Europea. Ma un dato interessante che deve farci riflettere è il numero la partecipazione elettorale, che non è altissima, eh. È alta, insomma, a livello della partecipazione standard alle elezioni politiche, è intorno al 60-62%, okay? Quindi c'è sempre una grossa fetta di astensionismo, anche lì nel momento in cui si decidono processi così importanti per la vita collettiva e per la vita individuale di un paese. Quindi un primo elemento di riflessione ora, insomma, nei giorni a venire, insomma, la prossima settimana sarà questo, analizzare la partecipazione, chi ha partecipato, perché, chi si è astenuto, che è un argomento molto importante rispetto a una dinamica elettorale come quella del referendum. E poi dicevate una cosa molto importante sul discorso Grecia dentro, Grecia fuori. Di sicuro l'Europa non può permettersi l'uscita della Grecia, ok? Questo è chiaro, l'avete detto Sì. chiaramente, insomma, non può permettersi l'Unione Europea, l'Italia non può accollarsi l'uscita della Grecia dall'Unione Europea. In questo stato, con le logiche di potere e di contrattazione, l'unica che può guadagnarci in qualche modo è la Grecia, con tutto ciò che dicevate prima, una ricostruzione perfetta, molto bella rispetto ai rapporti geopolitici, no? L'arrivo della Russia, di Putin o eventualmente anche della Cina. Quindi aumenta anche il potere contrattuale, lo dico in maniera un po' così, tra virgolette, degli strozzini, no? A Cioè, nel proposito momento di potere contrattuale e quindi di nuovi dialoghi, insomma, per trovare una via d'uscita, come valuti le dimissioni di Varoufakis? Ah, bello, quello è un atto secondo me straordinario dal punto di vista personale, insomma, di Varoufakis, ridicolo da un punto di vista delle motivazioni, perché veramente tra le motivazioni è stato detto esplicitamente quelli non mi vogliono, l'Eurogruppo, insomma, qualcuno a livello dell'Europa non sto a modo, non piace, non piace come tratto, come porta avanti la Sì, trattativa. giocatore d'azzardo lo hanno definito. Sì, lo hanno definito in tutti i modi, ma è un atto straordinario voluto secondo me da Tsipras. concordato ovviamente con Varoufakis, ma è una delle carte che Tsipras porterà domani all'Eurosummit, no? Oggi si sono sentiti con la Merkel, quindi domani ci si aspetta questa nuova proposta. Quindi cosa si porterà? Sa già chi è il sostituto di Varoufakis? C'è qualche indicazione? Non ricordo il nome, però è un economista che si è formato in Inghilterra, insomma un cinquantenne che ha trattato, in qualche modo è stato delegato per il governo. Ma di che corrente economica è? Perché Varoufakis era insomma un discepolo di Galbraith, comunque un neo-keynesiano, se vogliamo etichettarlo. Non lo so, mi voglio impreparato, non lo so, perché non ho visto il profilo, ho visto insomma che è stato lui che ha curato un po' la fase contrattuale con l'Europa ed è stato diciamo il sostituto naturale in pectore rispetto a Varoufakis. Però oltre questo, oltre quindi la testa di Varoufakis, Tsipras porterà ovviamente il successo del no al referendum, il 61% del no alla vigilia. I rischi erano grossi, insomma si parlava di spaccatura del paese, una vittoria del 51% del no sarebbe stata comunque debole rispetto ad una contrattazione europea. Oltre a questo, che cosa deve portare? Il nuovo piano di riforme, in relazione a quello che dicevate prima, che la Merkel stessa ha detto impossibile, no? Secondo le logiche, una logica del debito, giustamente è impossibile presentare un nuovo piano economico, ma in cui entra insomma in qualche modo la fantasia al potere. Però un'altra carta che è fondamentale, che è stata un po' segretata in questi giorni, viene dal Fondo Monetario Internazionale, che giudica insostenibile il debito greco. È l'elemento più importante, politico, economico, più importante di questa vicenda greca. Cioè il Fondo Monetario Internazionale, creditore di 1,6 miliardi nell'ultima tranche, ha una parte del dossier che è stato un po' segretato, è stato un po' celato, insomma tenuto un po' nascosto, insomma era stato ripreso solo da Tsipras nel discorso del 2 o del 3 luglio, non ricordo, dichiara l'insostenibilità del debito greco. Cioè con un debito del genere la Grecia non può uscire dalla crisi. Quindi questo. Poi quindi sostanzialmente si dichiara il default della Grecia, quindi non ci sono margini di... No, cioè praticamente riconosce cioè il fatto che la Grecia in una condizione del genere e quindi con un ipotetico rilancio economico basterebbe soltanto a pagare gli interessi e non quindi in qualche modo a saldare il debito originario, capito? Quindi strozzati sostanzialmente dal Greco. No, secondo me il default è una cosa... un'altra cosa interessante che è uscita oggi, stamattina, e che è un po' preoccupante a mio avviso, è quello che definiscono, quindi sostanzialmente serve della liquidità. Diceva prima Italo, in rapporto al 10%, verissimo, al popolo e il resto alle banche. Serve una liquidità. E oggi non ho ben approfondito la questione, questa liquidità viene in qualche modo mascherata con un termine che è un po' drammatico, sta per dire, cioè aiuti umanitari. Fa abbastanza ridere. Sì, però è delegittima in qualche modo, sia il risultato del voto, delegittima ampiamente ancora di più il risultato ottenuto dal governo Tsipras, è disposta una sorta di nuovo accesso al credito, nuova liquidità sotto forma di aiuto umanitario, il che insomma è alquanto drammatico rispetto anche a quello che dicevate prima. Due cose interessanti. Simpatiche, per drammatizzare un po', da parte quello che dicevate prima, la drammaticità delle dichiarazioni di Schulz, che sono un qualcosa di tremendo, di atterrante da un punto di vista, e dall'altra invece la paternità della vittoria. Ho rivisto con gioia un post di Lercio che andava a dire un tempo fa. Quello si ribalta il carro dei vincitori di Tsipras, feriti insomma non so 85 politici italiani, 65 politici, il che la dice lunga sulla trasversalità, sul bisogno di riconoscere anche il fatto. Una delle richieste che non so se prima tu Francesco Italo facevate al Movimento 5 Stelle, che anche altri leader politici, che è responsabile di Dirigere in Italia ha fatto, è quello di andare avanti, no? Non importa l'appoggio. Quello che importa è che da oggi ci sia una presa di posizione a livello del Parlamento europeo, quindi un passaggio dei membri del Movimento 5 Stelle dal gruppo di Farage a quello della sinistra europea. Tutto qui. E invece, Mari, in Italia come siamo messi? Ah, in Italia un grappettato. In Italia è un po' difficile Anche perché, insomma, Marino, ci sei? Sì, no, Dico, no, anche chiunque. perché in Italia, insomma, voglio dire, le condizioni per cui, no, che potrebbero favorire comunque un esperimento alla Siriza non ci sono, non sono date, proprio le condizioni politiche, cioè, è tutto molto più Frammentato. frammentato, sicuramente anche più quieto dal punto di vista sociale, che comunque Sì. non dimentichiamo che in Grecia. Proprio nel periodo in cui andasti tu, gli scontri di piazza in Grecia erano all'ordine del minuto, non del giorno. Esatto. C'è da dire un'altra cosa. L'atto più drammatico fatto dai, insomma, i governi, dalle famiglie, no? Che hanno governato la Grecia, insomma, nel periodo dell'anticrisi, insomma, quelli che hanno provocato la crisi, è stato quello sistematicamente di indebolire il ceto medio, ok? Sì. Quindi insegnanti con prima l'80%, poi il 50%, poi con un terzo dello stipendio. Quindi in qualche modo la crisi ha distrutto un ceto medio che in qualche modo ancora in Italia ha garantito una forma di stabilità. Ricordate l'acclamazione rispetto al governo Monti, quindi ai tecnocrati che in qualche modo erano identificati come gli unici in grado di salvare il paese. Perché in qualche Pensa un modo po'. la paura del ceto medio è quello che garantisce la stabilità di una situazione politica. Poi ovviamente c'è un qualcosa che dal 2001 in poi in Italia è completamente sparito, insomma Grillo è riuscito a intercettare quello che è stato Genova, il dopo Genova, con la forza dei movimenti che si è completamente disintegrata e frammentata all'interno di una sinistra che voi stessi insomma, conoscete alla perfezione, forse meglio di me. Quindi partiti che non rappresentano, partiti cartellizzati, partiti che non hanno più una membership, quindi che non hanno più un appeal rispetto agli iscritti, quindi a quello che dovrebbe essere la linfa, no? Di Beh, un'associazione, certo. gli associati. Vabbè, E insomma, quindi diciamo che gli errori storici della sinistra, diciamo, radicale, così, tra virgolette, italiana, sono lì, stanno lì, proprio nella storia. assolutamente. Hanno compiuto una serie di strafalcioni proprio da dilettanti della politica. Quindi, io ricordo tutta una serie di... Soltanto a dire che, insomma, il 97 la precarizzazione, la flessibilizzazione del lavoro in Italia venne introdotta grazie ai voti determinanti di Rifondazione Comunista, la dice tutta su che fine ha fatto la sinistra italiana, no? Esatto, sì, ma anche la corsa ieri insomma, alla foto in prima pagina in Piazza Sintagma dei politici Oddio, italiani, insomma, è un oddio. po' la dice lunga. Incel, per esempio, una grossa spaccatura che ha portato a una frattura forte, è stato l'ultimo congresso in cui si è dovuto scegliere da che parte stare, se con Tsipras o con Schulz, no? Alla luce di quel fatto, Tertium non datur, proprio o Tsipras o Schulz, sì. ok. Tsipras o Schulz, e Pensano. lì si è creata poi una spaccatura che insomma, ha portato alla fuoriuscita di tante persone, insomma, di consiglieri insomma, che sono passati al PD. Però c'è un elemento a mio avviso molto interessante, riguarda la pochezza a volte, no? Come dicevo prima, no? Il bisogno di riconoscere una legittimazione attraverso l'etichetta Tsipras, no? Della Del sinistra, proprio magari che operato, sì. sì, l'etichetta Tsipras legata sostanzialmente a qualcosa che ha a che vedere con un movimento sociale, con condizioni economiche, con una storia completamente diversa rispetto a quella italiana. E quindi mi fa sorridere, per esempio, ieri Ferrero, Beh. una persona onestissima, No, per correttissima, carità. in una sua dichiarazione, ma così come anche tutti gli altri, La sua dichiarazione mi ha strappato un sorriso enorme perché nella prima parte diceva, ora criticava un po' quello che abbiamo detto anche noi rispetto al Movimento 5 Stelle, no? Sul fatto di sedere ai banchi. Nella seconda parte diceva, ora domani parlerò con Tsipras, cioè oggi, lunedì, per discutere dell'Europa, della Grecia. Per carità, l'importanza di Ferrero nella condizione geopolitica europea è ovviamente, cioè, c'è bisogno di accreditarsi a livello europeo che non va, cioè non è parte integrante di un processo che ha bisogno di una ripartenza, una ripartenza dal basso, tramite chi pratica il territorio, insomma, il vostro esempio da un punto di vista potrebbe essere l'esempio perfetto della dinamica greca, il comitato brasiliano, insomma. È l'esempio di come ci si ancora, come ci si chiede una presenza territoriale dalla quale non ci si muove, okay? L'inamovibilità del comitato rispetto a determinate scelte costituisce, diciamo, una base rispetto a quello che poi deve diventare l'integrazione tra istituzioni, partiti, associazioni e così via, così in maniera molto Sì, superficiale, insomma. siamo d'accordo su questo, siamo veramente sulla stessa linea. Marino, purtroppo ti dobbiamo salutare perché siamo proprio agli sgoccioli. Io ti ringrazio, Italo, Andrea, tutti quanti, ti ringraziamo per questa bella chiacchierata. Grazie a voi, ragazzi, Poi eh. ci sentiamo, magari organizziamo qualche altra puntata di approfondimento, sarebbe interessante. Sul caso Sì, italiano. sul caso italiano, sul caso italiano. Ciao Grazie Marino, ciao. ragazzi, Mari. ciao, presto, ciao a tutti. Allora. Mandiamo un pezzo musicale e poi andiamo in chiusura con gli ultimi 10 minuti e parliamo un po' di Munniz, che a noi ci piace tanto No, parlare di non Munniz. possiamo, è più forte di noi, è più forte di noi. Bentornati in studio, 105.7 ciroma.org italoline. Siamo in chiusura, insomma, dopo questa cavalcata greca. Sì, vabbè, questa danza greca che abbiamo fatto oggi. Spunti interessanti ne abbiamo di tanti. Da sì, Marino sì. Abbiamo riso del PD, perché il PD ci può fare solo scappare una risata o una lacrima. Infatti sì. E giusto per così, sempre parlando un attimo al volo di debito, ho trovato una dichiarazione di Sankara nel suo famoso discorso all'ONU, dove lui diceva: il debito è come un casinò, fino a quando vincono gli sta bene tenerci il debito, quando perdono dici che il debito va ripagato sul sangue dei popoli, hanno perso e quindi si può vincere, si può perdere e noi non paghiamo nulla. Ovviamente Sankara fu ucciso. Vabbè, è chiaro, Sankara, no? era un presidente del Burkina Faso, sì. Ex generale dell'esercito di liberazione del Burkina Faso, e il Che Guevara africano, sì, sì, come sì, il Che Guevara sì, africano, per chi non lo conoscesse. Poi magari facciamo anche una puntata su Sankara, volendo, sì, perché sarebbe interessante, insomma, ripercorrere le tappe, la vita di questo personaggio eccezionale. Sì. Detto questo, ritorniamo nella nostra triste attualità, tristissima, perché di una tristezza sconfinata. È giunta notizia da quel di Rovito, dal colle rovitese, che è stato cancellato facendo un altro murales sopra, un murales che era stato fatto qualche tempo fa, dove c'era scritto: tu vivi e vivrai nella puzza, in memoria della puzza che ogni giorno noi sentiamo a Rovito. Ci dispiace dire a chi ha deciso di coprire quel murales, che io penso sia l'amministrazione comunale, che puoi coprire il murales, però non puoi coprire la puzza, perché la puzza continuerà a sentirsi. Voi dite che non vendete le case perché c'è il murales, invece non vendete le case perché c'è la puzza. Tu che fai gli screenshot, riporta anche questo al tuo segretario, bella mia cara. Compagna di avventure, e speriamo che riuscite a vendere le case, o comunque, visto che avete anche le discariche oltre le case, chiudete le discariche e fate più case. Così, giusto per uno slogan. Tanto, chi vuole capire capisce, anche se si parla di semi-analfabetismo, quindi non è che... Detto questo, Francesco ride, ma è la verità. Ridiamo, ci ho detto che quando c'è da parlare di PD c'è solo da ridere e ridere ancora, è sempre ridere. Sto provando a ridere per non piangere. E in tema di rifiuti, questa mattina sulla statale 107 camminavano dei camion senza targa che portavano spazzatura a quel di Celico. Noi non abbiamo fatto in tempo a segnalare alla polizia stradale, perché la segnalazione ci è giunta, diciamo, in differita. Però, visto che la Digos ci ascolta sempre, vi informiamo che sulla statale 107, oltre a qualcuno senza cintura, transitano anche dei camion che trasportano spazzatura identificata senza targa. Se magari vogliamo fermarli così, giusto per vedere cosa portano, se hanno le bollette di accompagnamento e hanno i codici CR identificativi dei rifiuti che trasportano. Detto questo, andiamo velocemente, perché siamo in chiusura, proprio abbiamo sfalato alla grandissima. Vabbè. Oggi siamo anche noi in Grexit. Oggi sì, siamo in Grexit anche noi. Assolutamente. La settimana scorsa, il 2 luglio, si è tenuta finalmente la commissione, la quarta commissione, dove si è parlato del nuovo piano rifiuti, delle linee guida del piano rifiuti. Sì, è stato lo show di Pallaria. L'ingegner Pallaria ha fatto il suo show in quarta commissione e ha, diciamo, delucidato i profani del mestiere su come impostare questo nuovo piano rifiuti. Diciamo che noi abbiamo avuto le slide che sono state usate durante questa presentazione, diciamo che le abbiamo un po' studiate, anche se c'era poco da studiare, perché comunque si trattava semplicemente della trascrizione fedele e lineare delle normative vigenti. Quindi, giudice Andrea, ti voglio bene, anche se mi hai bloccato su Facebook, vedi che anche il tuo ingegner Pallari ha scritto che c'era entro il 2012 bisognava raggiungere il 65% della raccolta differenziata. Quindi, quando leggi le normative, leggile tutte per bene, perché esiste questa normativa. Quindi non ti agitare su Facebook, stai tranquillo, stai sereno, e ci vediamo il 9, perché il 9 sei al un hotel non so cosa con i Verdi, ci facciamo un sacco di risate. Sì, sono stato invitato proprio oggi da un rappresentante dei Verdi, ufficialmente proprio, quindi ci hanno invitato proprio ufficialmente come comitato a partecipare. Non figuriamo tra i relatori, però ufficialmente ci hanno invitato, quindi lo diciamo pure per a beneficio, insomma, di chi ci ascolta. Saremo a questo appuntamento, dire non la nostra. Non vediamo l'ora, mi hanno accusato di dire che non vedo l'ora di parlare e di confrontarmi. Io non vedo l'ora di confrontarmi, lo ripeto. Dillo al tuo segretario. E insomma, oltre a dire le solite puttanate che bisogna affinare la raccolta differenziata, è stato fatto un attacco chiaro alla raccolta porta a porta, nel senso che l'impiantistica si baserà, almeno da queste linee guida illustrate, su degli impianti, dei nuovi impianti di selezione secco umido, ovviamente molto più tecnologicamente avanzati. Addirittura non so se si tratta di questi impianti, perché non sono state illustrate le caratteristiche tecniche, però ci sono degli impianti che sono in grado anche di differenziare per colore il vetro attraverso dei sensori infrarossi. E diciamo che vogliono bypassare la raccolta differenziata porta a porta, specie nei grandi centri abitati, perché comunque è difficile, Cosenza la dimostrazione, nonostante comunque la raccolta funzioni discretamente bene. È la dimostrazione che è difficile e oneroso gestire il porta a porta. Presupporrebbe comunque degli investimenti e naturalmente, in presenza di una gestione pubblica del ciclo dei rifiuti, questi investimenti avrebbero un ritorno. Dal momento in cui invece qui si sceglie la strada di darla in gestione ai privati, è naturale che gli investimenti sarebbero a perdere. Assolutamente, questo, ricordiamo, ecco perché non puntano sulla porta a porta. Oliverio ha detto apertamente che qualora non ci sia il privato che investe, cioè sarà il pubblico, e poi darà in gestione al privato. Appunto. Penso che più chiaro di così non poteva essere. Come si legge insomma da queste linee guida, l'obiettivo di questa amministrazione regionale è quello di arrivare al 65% di raccolta differenziata entro il 2020, quindi in netto ritardo di 8 anni rispetto alla normativa vigente, però è meglio tardi che mai. Sì, vabbè, sicuramente. Bruciare nell'inceneritore e mettere in discarica solo 13.000 13.000 tonnellate all'anno anziché le 702 attuali. Mila tonnellate attuali, quindi diciamo che si dimezzano gli sversamenti in discarica e i bruciatori bruceranno di meno, però comunque saranno comunque centrali e ci sarà bisogno di discariche. Si parla anche di obiettivo zero discariche, però sono chiacchiere, perché poi gli unici dati che forniscono di questi tonnellaggi che vanno in discarica e in inceneritore e sbugiardano questa virgolettato zero discariche, perché perché serviranno sia per discariche normali sia per discariche speciali a valle degli inceneritori. Esatto. Ovviamente sì, c'è un salto di migliorativo rispetto a quello proposto da Scopellini, è fuori di dubbio, si tratta anche... Questo è ancora sulla carta. Sulla carta. Poi dobbiamo vedere pure l'operatività. Siamo anche nel 2015, voglio dire... Martin McFly nel 2015 volava sulle macchine, voglio dire, siamo un po' indietro rispetto a Ritorno al Futuro, diciamo abbastanza, sì. Doc Brown ha abdicato e abbiamo palla noi, quindi diciamo che leggendo queste linee guida si percepisce che filosofia ecologica alla base del loro piano rifiuti, non... è un cazzo di piano psico, colpi di genio, dillo al tuo segretario che hai colpi di genio. Diciamo che la giunta da che si deduce da questo piano mira a espletare questo suo compitino di fare la raccolta differenziata, di raggiungere le percentuali richieste dalla normativa, anche se in ritardo, fa il minimo, comunque è già una cosa. L'aspetto comunque che è deprimente è che continua il silenzio in merito alla proposta dei comitati di incontrare Oliverio e l'ingegnere Pallaria per discutere del più rifiuti, c'è ancora questo silenzio infernale. Oggi era annunciata la nuova giunta, ancora non abbiamo contezza, non c'è nessuna notizia che gira su Facebook. Probabilmente ancora non su Facebook non si sono messi d'accordo. Certo che insomma le elezioni sono state fatte a ottobre, novembre, sono passati 7 mesi, insomma di più di 7 mesi, 9 mesi. Vabbè, l'aveva fatta, gliel'hanno arrestati, ma non è che era proprio piacco Oliverio. Venite con i magistrati comunisti che votano Tsipras. Ah giusto, è vero. Addirittura c'è uno spostamento a sinistra dei magistrati. Assolutamente. È fantastico. Vabbè, comunque, ad esempio, un altro lato positivo che io vedo in questa cosa è che abbiamo finalmente una base reale su cui parlare. Quindi abbiamo delle dichiarazioni ufficiali fatte in una commissione ufficiale. Sì, sì. E questo, diciamo, è l'Oliverio cambia verso pensiero che verrà imposto nel piano rifiuti. E almeno non abbiamo più le chiacchiere preelettorali, abbiamo qualcosa di concreto. Di concreto, su cui, sì, sì, sì. Su cui basare comunque una critica oppure delle proposte, no? Certo. Diciamo che anche in questo caso la discussione della commissione è stata veramente rapida, ci sono stati degli interventi di Orlandino Greco, di Nucera, abbastanza ridicole, vabbè, che parlavano del sesso degli angeli. Addirittura Orlandino Greco diceva che non bisognava non favorire i privati per riaprire le discariche pubbliche. Ricordiamo che Orlandino Greco è quello che ha fatto aprire la discarica di Castro Libero a 120 metri da una scuola elementare. Ognuno tira l'acqua ognuno al proprio mulino. Tira l'acqua al proprio mulino. E siamo in queste condizioni. Cosa dobbiamo dire più sul ciclo dei rifiuti? A livello regionale abbiamo terminato, a livello locale, giusto in chiusura, per chi non lo sapesse, il sindaco Antonio Falcone, grande Anthony, ha fatto finalmente l'ordinanza comunale che vieta il transito a determinate tipologie di camion. In questo caso dovrebbero poter passare solo gli autocarri, i compattatori per la strada della discarica. Perché finalmente gli è arrivato quel riscontro dall'università che gli ha detto che la strada non è adatta. Non è agibile, ci voleva l'università della Calabria. Ci voleva l'università della Calabria. Sì, vabbè, comunque è stata fatta. Ovviamente la discarica è ancora aperta, ma nel suo fantastico lezzo che pervade le serate presilane. I politici dei locali sono immobili, fermi, sono spariti, impantanati, spariti, si stanno ricaricando le batterie per le campagne elettorali che ci saranno quest'inverno, perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni. Qualche altra chicca, il murale l'abbiamo detto, il 13 dovremmo fare un incontro a Spezzano Sila. Ci sono dei problemi logistici già, perché il sindaco di Spezzano Sila non vuole darci la piazza per l'orario da noi richiesto, ovvero dalle 19 alle 24. Lui dice che non può pagare i vigili dopo le 20 e quindi ci dà la piazza solo dalle 16 alle 20. Non possiamo attaccare striscioni. E se attacchiamo l'amministrazione comunale farà una contromanifestazione per dispetto. Che paura. Quindi ci troviamo in queste condizioni. Noi penso che sicuramente andremo a decidere in assemblea tra un paio di giorni quello che dobbiamo fare. La linea che è predominata è che faremo lo stesso rincontro dalle 16 alle 20 per evitare di essere ancora una volta usati come grimaldello rivoluzionario che non scendono mai a patti. Cercheremo di informare i cittadini di Spezzano Sila, che anche loro quest'estate sono stati investiti dalla puzza. Si sente il malcontento, il sindaco forse ha un po' di sfregola, ha qualcosa contro di noi solo perché abbiamo pubblicato l'anno scorso un articolo che riguardava lui del quotidiano della Calabria, poca roba ovviamente. Non sappiamo perché c'era così tanto con noi. L'incontro penso che lo faremo lo stesso, perché comunque i cittadini è giusto che vengano. Sì, sì, vabbè, noi comunque faremo una riunione la consueta riunione settimanale mercoledì, discuteremo insomma come muoverci, anche se io credo che sia quasi d'obbligo farla comunque nell'orario che ci ha detto di farla, perché presteremmo il fianco comunque, no, al pretesto di dire: vabbè, siete sempre i soliti che vogliono contestare e basta. E questo è il PD, ricordiamolo sempre. Io inviterei il carissimo esimio sindaco Tiziano Gigli di Spezzano Sila a pensare un pochino più ai problemi della gente e a curarsi un pochino di meno del comitato ambientale presilano, che svolge comunque un ruolo sociale e politico di cui dovrebbe andare fiero. E questo insomma è un invito che rivolgo personalmente a lui, che insomma ci ha visto sempre di cattivo occhio, ci ha sempre attaccato, ci ha sempre visto comunque come un fattore di disturbo delle dinamiche politiche mortifere della Presila da trent'anni a questa parte. La novità al Comitato Ambientale Presilano evidentemente dà fastidio a molti, e lui in particolare è quello che lo esterna con più decisione, diciamo così. Quindi lo inviterei a pensare un po' di più ai problemi e alle problematiche della sua popolazione. Andrea giustamente dice "Iamo ninne", perché abbiamo sperato di 20 minuti, fa un caldo tremendo. Tremendo. Ricordiamo solo gli appuntamenti del gas a Serra Pedace sabato mattina dalle 10 in poi. Questa volta saremo a Serra Pedace, continua il tour del gas, grande successo a Spezzano Piccolo, che non c'entra con quello russo, no, il gruppo di acquisto solidale, mercatino ecologico a chilometro biologico a chilometro zero. E poi volevo chiudere con una citazione di Neruda: e potrete coprire tutti i murales, ma non potete recidere la puzza. Va bene così. Siamo in chiusura, allora 105.7 Genova.org, noi siamo sempre gli Scarafaggi, ci sentiamo lunedì prossimo dalle 18 alle 19 come consueto. Un saluto a tutti quanti. Avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato. E accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa.